Antonio Polito, tu hai scritto tempo fa che il problema di Berlusconi è stata la mattanza di delfini, un'espressione che mi piace molto. Allora ti chiedo, il problema, oltre a quello che ricordava Nicola, è che dopo Casini è finito Cara Tremonti o c'è invece un tema oggettivo specifico e che riguarda un Tremonti che è stato più bravo di Visco nell'esigere le entrate fiscali? Ma insomma, come dire, l'abitudine, l'ossessione del berlusconismo di far fuori gli uomini che possono ambire a succedere a Berlusconi anche dal punto di vista elettorale, dal punto di vista della candidatura a Premier, era evidente già qualche mese fa e da tempo, come appunto scrivevo in quell'articolo, prevedendo che prima o poi sarebbe toccato a Tremonti. Io dico che Tremonti ha fatto il suo dovere, l'ha fatto bene, secondo una politica che starebbe benissimo in un governo di centrosinistra. Il governo di centrosinistra ha fatto questa politica negli anni passati, nei 2 anni in cui ha governato, è stato massacrato dal centrodestra perché faceva questa politica, soltanto episodi a provvedimenti come non so, la tracciabilità dei guadagni dei professionisti, no? La questione degli assegni, quella è una roba che fece Padoa-Schioppa, anzi fece Visco e fu massacrato dal centrodestra. Questa politica è stata riproposta in maniera molto rigorosa e molto severa e molto seria dal ministro Tremonti. Quindi è una politica che va benissimo per ridurre i conti pubblici, però il problema appunto è quello che assomiglia maledettamente a quello del centro-sinistra. Io credo che al nord in queste elezioni abbia molto pesato, più che il fattore B Berlusconi, il fattore B come Befera, insomma, come il direttore generale Belle delle queste, entrate. belle E c'è una rabbia molto forte su queste queste abbiamo fatto intere cose. puntate sulle ganasce fiscali che oggi, devo dire, con una decisione bipartisan del Parlamento sono state bloccate praticamente chi per difficoltà economiche temporanee è moroso verso Equitalia e altri enti di riscossione, cioè sarà una moratoria su questo e tra l'altro anche la discussione delle multe dovrebbe tornare ai comuni, non a Equitalia.